Continuiamo il nostro spazio dedicato alle donne, alle compagne, alle femministe, alle lesbiche che fanno radio in altre radio. Siamo adesso collegate con una compagna di Radio Cane, che è una più che radio web, è una radio fatta di podcast di Milano. E le compagne appunto di Radio Cane, insieme alla Refe, la rete di relazioni femministe, stanno editando questo progetto che si chiama Margherita. Allora, innanzitutto io ti chiederei subito di raccontarci che cos'è e chi è Margherita. Bene, allora Margherita è una narrazione che ha come tema centrale il conflitto, o meglio la risoluzione del conflitto. Chi è Margherita? Margherita è una donna, ma rappresenta anche tutte noi, cioè le compagne che hanno elaborato e si sono confrontate per la creazione di questa storia, di questa narrazione, che fa parte di una pubblicazione che si chiama Digitalis Purpurea, che è nata da riflessioni e pratiche su conflitto, corpo e violenza. Appunto Margherita è una riflessione su il conflitto in particolare. È una produzione elaborata da un gruppo di compagne tra Milano, Genova e Torino, e precisamente per quanto riguarda Margherita sono le compagne di Milano che si sono occupate di approfondire e confrontarsi su questo tema del conflitto. Margherita quindi è un io collettivo in qualche modo, avendo letto, possiamo anticipare, avendo letto appunto i contributi sul Digitalis Purpurea, sono varie storie che hanno al centro il conflitto, ma immagino che siano varie storie avvenute, successe a varie di voi. Sì, il primo problema con cui ci siamo trovate ad affrontare è stato il metodo, cioè come poter affrontare questa tematica e poi poterla comunicare in una forma scritta o poi si è deciso anche radiofonicamente. Quindi abbiamo deciso ognuna di dire, di riflettere e poi di incontrarci e confrontarci su che cosa era per noi il conflitto. Tenendo presente tutte le espressioni di ognuna di noi, che non erano altro che le espressioni della propria esperienza di vita e delle proprie esperienze anche diciamo sia personali che politiche, tra virgolette. Da lì il filo conduttore che ne è uscito, anche se si è voluta mantenere la diversità di tutte queste espressioni, è che il conflitto per noi ha comunque rappresentato nel bene o nel male una possibilità di confronto, una possibilità di metterci in gioco, una possibilità di agire. E così è nata Margherita, che è questo noi, che si declina in vari contesti, che noi abbiamo preferito chiamare quadri piuttosto che capitoli o paragrafi, perché un quadro comunque ha uno spazio-tempo all'interno di una cornice, però permette allo stesso tempo a chi lo guarda, a chi lo osserva, di dare la propria interpretazione, di elaborarlo, metabolizzarlo e trovare la suggestione che magari lo porta a un'ulteriore elaborazione. E così Margherita si muove in questi quadri senza un ordine cronologico, apparentemente, in verità con un filo conduttore che la porterà quindi a varie risoluzioni del conflitto, ma risoluzioni vissute come possibilità e quindi aperte a un confronto che in questo momento avviene nei momenti in cui per esempio presentiamo la pubblicazione, oppure per chi ci ascolta in radio con le varie puntate che stiamo preparando. Sono quindi quadri, episodi di vita, alcuni nel movimento, altri proprio storie di vita personale, di relazione con la propria coppia o con le amiche o anche con donne appunto che esprimono vari tipi di conflitti incontrate per la strada. Però il primo quadro è un po' differente dagli altri, perché ci porta indietro nel Medioevo a una storia collettiva di tutte noi, che però non abbiamo vissuto in prima persona, che è la storia delle streghe. Come mai avete iniziato con quella? Ma allora, il primo quadro infatti ha come titolo la crisi di identità, no? Cioè è partito da una semplice banale constatazione: nel momento stesso in cui tu nasci, la prima cosa che viene detta alla mamma, alla futura mamma, è signora è una femmina, e talvolta anche seguita da un mi dispiace, no? Quindi vieni subito catalogato in un determinato modo e ti viene automaticamente, fin da quell'istante lì, probabilmente già dall'ecografia, data un'identità, ma che non è l'identità che tu ti sei scelta, che hai costruito nelle tue esperienze, ma è un'identità che è stata imposta da un sistema economico, politico, sociale negli anni. Noi nel primo quadro abbiamo voluto rintracciare un momento particolare della storia, che è quel momento in cui praticamente prende avvio in una forma più compiuta il capitalismo. Ci siamo rifatti ad alcune teste e ad alcuni testi che poi sono nella bibliografia all'interno della pubblicazione, ed è quel momento in cui identità come quelle della strega, con la propria libertà d'espressione, con le proprie capacità, con i propri strumenti, vengono schiacciate perché ritenute pericolose, perché ritenute quindi non governabili da quel sistema che poi aveva intenzione e ha avuto poi anche la possibilità di svilupparsi in un determinato modo. È il periodo della caccia alle streghe, della caccia degli eretici, della caccia di tutti quegli uomini e quelle donne che praticamente era impossibile da riportare ad una forma di ordine precostituito che si andava fondando. E su questo, e da lì nasce chiaramente la crisi identitaria. Abbiamo in qualche modo simbolicamente scelto quel momento lì come crisi identitaria, perché ti veniva imposta un'identità di donna ben precisa e funzionale, ma non era la tua identità. E da lì entri in crisi, entri in conflitto e ricerchi una risoluzione. Ascoltare Margherita e appunto questo primo quadro, e ci sarebbero molte altre cose di cui ci piacerebbe parlare e magari ci ritorneremo, essendo appunto collettivi, gruppi di compagne che fanno radio, ci interessava anche molto il lavoro che è stato fatto di trasposizione fra lo scritto e fra il linguaggio, quindi scritto, e il linguaggio radiofonico, ma forse ti proporrei di ritornarci in un altro momento, e adesso, visto appunto che abbiamo presentato questo quadro, lo manderei in onda, se sei d'accordo. Va bene, perfetto, poi avremo sicuramente tempo per riparlarle. Grazie mille allora del lavoro che fate, e buona lotta e a presto. Ed ecco Margherita. Ok, grazie anche a voi e niente, buon ascolto e ciao a tutte. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Refe, Relazioni Femministe presenta Refe Milano in Margherita. Scritto, diretto e interpretato da Refe Milano. Margherita cominciava a sentirsi a disagio, a starsene lì seduta, in attesa, senza fare niente o quasi, nonostante davanti a sé scorressero fatti, accadimenti, eventi che lei riusciva a vedere nitidamente e a cogliere nella loro essenza, nel loro significato più profondo, senza però riuscire a darvi una risposta, ad agire, ad affrontarli come avrebbe voluto. Così se ne stava lì a riflettere, quando, dal nulla, apparve una cagnolina che, correndo veloce, diceva fra sé e sé: siamo già nel terzo millennio e del tutto invano. Niente di veramente insolito le sembrò all'inizio. Ci ripensò, avrebbe dovuto meravigliarsene. Eppure sul momento tutto le era apparso così naturale. Margherita balzò in piedi, sentendosi sempre più sicura di sé. mese a inseguire la cagnolina e senza neppure darsi pena di chiedersi come diavolo avrebbe fatto a tornare indietro, si infilò in una galleria scura di cui non si riusciva a scorgere la luce dell'uscita. Corse, corse, corse, finché improvvisamente davanti a lei non si spalancò la porta di una camera, rischiarata da una fila di lampade appese alle pareti. La stanza era arredata con un girotondo di specchi, di cui solo uno era coperto da una spessa tenda di velluto rossa. Mentre si dirigeva verso lo specchio coperto, si imbatté in un tavolino a tre gambe, su cui stava una scatoletta in oro massiccio. L'aprì senza esitazione e vide che vi era all'interno dell'unguento di color giallo. Margherita lo annusò. Le parve odorasse di palude e di bosco e senza pensarci due volte incominciò a spalmarsi l'unguento sulla fronte e sulle guance. L'unguento si spalmava con facilità e Margherita ebbe l'impressione che evaporasse immediatamente. Dopo qualche frizione, senza indugio, alzò la spessa tenda rossa di velluto che copriva lo specchio e si guardò. Chiuse gli occhi, poi si guardò un'altra volta. Le sopracciglia si erano fatte più folte e formavano due archi neri sugli occhi, di un verde più intenso. Le guance si erano fatte rosee, la fronte bianca e limpida, e i capelli neri erano diventati ondulati. Margherita iniziò a spalmarsi l'unguento su tutto il corpo, che divenne subito roseo e pieno di ardore. Improvvisamente si sentì come se le avessero rischiarato la mente e levato un'ombra pesante dal cuore. Ora in lei, in tutte le cellule del corpo, ribolliva una gioia che avvertiva come un formicolio diffuso. Margherita si sentì leggera, pronta a librarsi in volo. Si accorse che un sottile filo la teneva ancora legata, ma le permetteva comunque di iniziare questa straordinaria avventura che l'avrebbe portata a recidere anche quell'ultimo legame e sentirsi finalmente libera. Poi il corpo di Margherita perse peso, fece un salto e oltrepassò lo specchio, rimanendo sospesa in aria. Margherita, oltrepassato lo specchio, vede davanti a sé un'erba che le era familiare. Ne ricorda improvvisamente nome e proprietà, bella donna che stimola corpo e mente a liberarsi dal giogo della razionalità. È a Triora, in mezzo ai cari monti e in un confortante bosco. Nonostante sia in luoghi che le sembrano conosciuti, tra persone amiche e ogni sentiero la conduca in posti che le ritornano alla memoria, qualcosa la spaventa, la rende nervosa e la fa sentire a disagio. La cagnolina le gironzola intorno e sembra indicarle una strada che conduce verso il paese. Appena giunge nella piazza centrale, nota un cartello che vieta a uomini e donne di radunarsi nel bosco, nelle ore notturne per praticare il sabba. Un incontro durante il quale, riportava l'ordine, le donne si univano sessualmente a Satana, lanciavano maledizioni di impotenza ai loro uomini, praticavano l'infanticidio, celebravano la parodia della messa. Margherita non riusciva a capire cosa stesse succedendo. Vide la data sul cartello del divieto e si accorse di essere nel 1500. Era confusa. Il viaggio attraverso lo specchio l'aveva portata indietro nel tempo, in un luogo a lei familiare, dove ogni pratica le sembrava conosciuta e appartenere alla sua vita, come l'uso terapeutico delle erbe, gli incontri notturni e il rapporto naturale distintivo con il proprio corpo, pratiche abituali e quotidiane, ma ora considerate pericolose per la pace e l'ordine sociale. Margherita stava realizzando, solo adesso, che su tutte e tutti incombeva una nuova forma di controllo delle condizioni della vita umana da parte del potere. dentro di sé sapeva che la gente aveva fiducia in donne che, come lei, custodivano tali saperi e pratiche, che le stimava e le riteneva una risorsa insostituibile per la comunità. Ma per la prima volta aveva la sensazione che il corpo e la vita di queste donne fossero in pericolo. Ora le avrebbero chiamate streghe. Decise allora di dirigersi verso casa sua, aprì la porta e vide tutti impallidire alla sua vista. Sua madre non poteva credere ai propri occhi. Suo padre, impaurito, si affrettò a chiudere la porta di casa. Ora Margherita è accusata di essere una strega. La madre le spiegò che centinaia di donne venivano uccise, ovunque, con l'accusa di stregoneria. Finivano sul rogo contadine ribelli, levatrici, prostitute e anziane con grandi conoscenze nell'uso delle erbe medicinali. Si sente soffocare, le gira la testa, è disorientata, impaurita. Sale le scale di corsa, entra nel suo laboratorio, è vuoto. Si precipita in cucina urlando: dove sono finiti il mio distillatore, le mie erbe e i miei attrezzi da levatrice? I suoi genitori la invitano a sedersi e le spiegano che i contadini si ribellano ai proprietari terrieri, i villaggi ai signori feudali, uomini e donne protestano in continuazione per il pane. È la razionalità del potere politico ed economico che avanza, modificando le nostre abitudini. Il nostro mondo è fatto di aggregazione e solidarietà. Ora ci è impedito di aiutarci tra noi per sopravvivere. Se lo facessimo, sai come ci chiamerebbero? Eretici e streghe. Margherita risponde loro che tutto ciò è assurdo, che la gente deve lottare contro questo nuovo modo di pensare l'individuo, il corpo e il tempo. Nello stesso istante in cui pronuncia queste parole, le sente deboli e astratte. Capisce che è veramente in atto un cambiamento epocale. Il potere ha bisogno di una nuova donna e di un nuovo uomo, più funzionali al modello economico ormai inarrestabile. La madre la guarda sbalordita. Possibile che te ne accorgi solo ora, Margherita? Non ricordi cos'è successo con il tuo fidanzato? Margherita ora si ricorda e chiede: che fine ha fatto il mio fidanzato? È vivo, ma sarebbe meglio fosse morto. Margherita corre verso la fattoria di lui, lo cerca nell'orto, lo trova e gli si avvicina. Lui si spaventa e appena la riconosce gli si riempiono gli occhi di odio e rancore. Margherita lo guarda interrogativa, lui le urla contro: strega, mi hai sedotto con un incantesimo e poi mi hai abbandonato, impotente. Non può credere alle sue orecchie, sente un forte dolore allo stomaco, come se il mondo le stesse crollando addosso. Lui non vuole nemmeno che gli si avvicini, crede che Margherita possieda poteri malefici e le urla di andarsene. Margherita lo guarda negli occhi: credi davvero a quelle assurdità che si dicono qui a Triora oppure parli solo per orgoglio? Lui non le risponde, nemmeno la guarda negli occhi. Forse i sentimenti per lei non sono finiti, sicuramente la paura e il dubbio insinuati nelle persone stanno sortendo il loro effetto. Anche il suo amante è cascato nella trappola. A questo punto è chiaro che tutta la comunità è in serio pericolo. Gli volta le spalle e ritorna a casa. Sulla strada vede la madre che le corre incontro con una borsa piena di vestiti, unguenti, cibo e monete. Margherita deve fuggire, l'inquisitore ha saputo della sua presenza e vuole metterla sul rogo. L'accusa è stregoneria. Margherita ha paura, sa di non avere alternativa, se non quella di scappare. Non vuole arrendersi, ma continuare ad esistere e ad agire. Margherita e la sua cagnolina fanno un balzo e attraversano lo specchio.